Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carla Oliva. Ringraziando la cortesia di un nuovo regista, Max Ferrigno, bravissimo come avrete notato, ringraziamo anche l'attenzione di tutti voi e vi confermiamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora. Grazie e buona giornata. E buona settimana naturalmente.